24 mattino. Le 7:32 minuti, 12 secondi. Buongiorno da Simone Spezia, benvenuti a 24 mattino. È il momento della lettura dei quotidiani oggi in edicola. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In primo piano. Allora, le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola sono piuttosto variate, almeno per quanto riguarda le aperture, anche se alcuni puntano sugli stessi argomenti, scelgono titoli diversi. Ad esempio, puntano sull'economia il Corriere della Sera, La Stampa, naturalmente il Sole 24 Ore e poi Avvenire. Ma se i primi due titolano sul Presidente del Consiglio che parla di ripresa cominciata, invece il Sole 24 Ore si occupa di Tremonti, che vara quella che il quotidiano economico chiama pace bancaria. Tremonti appunto vara la pace bancaria, il titolo. Mentre invece per quanto riguarda Avvenire, il titolo principale è dedicato alla ripresa americana, questo più 3,5% per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Cambia apertura tra i grandi quotidiani oggi in edicola anche Repubblica, che apre invece sull'influenza A e parla di già 11 morti in Italia, lo avete sentito anche nel nostro giornale radio, e il vice ministro Fazio che dice siamo il paese più colpito nell'Unione Europea. Come titolo economico sceglie invece di dare più forza alla questione del taglio all'IRAP, del duello alla Camera, così lo chiama Repubblica, tra la maggioranza e Tremonti. Apre sull'influenza anche il Messaggero. Ci sono alcuni quotidiani che scelgono aperture diverse, come per esempio la questione trans Marrazzo, si parla di un video di circa 13 minuti che girerebbe, e poi si parla anche della vicenda di Stefano Cucchi, ragazzo di 31 anni morto dopo 8 giorni di carcere. È l'apertura del Manifesto di Liberazione e ha un titolo forte anche sull'Unità. Bene, iniziamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera, che si diceva, apre con Berlusconi, appunto, che dice ripresa cominciata, ma si dà particolare spazio anche alla questione di Fini, una questione politica che sta emergendo in queste ore. Il Presidente della Camera ha fermato sostanzialmente la Camera perché manca la copertura economica per le leggi. Su questo c'è un commento di Francesco Verderami, piuttosto un'analisi su quel che sta succedendo, che la fa rientrare in quella che viene descritta come la lotta tra il Popolo della Libertà, un pezzo del Popolo della Libertà, e il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Scrive Verderami: se Fini manda i deputati in cassa integrazione non lo fa solo per difendere l'istituzione che rappresenta, ma anche contro la gestione troppo accentratrice di Tremonti nel governo, che soffoca l'attività delle Camere. Dice Verderami ancora: è vero che in prossimità della finanziaria, con la sessione di bilancio, c'è sempre una riduzione dell'attività di Camera e Senato, così come è vero che per anni e da più parti è stato criticato il parlamentificio, la trasformazione delle Camere in una sorta di industria pesante dove sfornare norme e codicilli in sovrabbondanza. Ma quella che Verderami chiama la cassa integrazione non si era mai vista, sebbene la settimana sabbatica, la riduzione dei lavori d'aula è stata introdotta nelle precedenti legislature. Il punto è che Fini, con la sua sortita, ha evidenziato quanto sia fragile la tregua sottoscritta da Berlusconi e Tremonti nell'incontro ad Arcore di qualche giorno fa. D'altronde, il braccio di ferro sull'IRAP al Senato tra la maggioranza e il Dicastero dell'Economia testimonia che le tensioni non sono sopite, piuttosto resteranno sotto traccia, ma, dice Verderami, fino alle regionali non si muoverà nulla. Rimaniamo sul Corriere della Sera e parliamo della vicenda, per così dire, trans, ossia dell'inchiesta che ha riguardato anche il presidente del Lazio Piero Marrazzo. C'è un pezzo della solitamente ben informata Fiorenza Sarzanini che parla dei verbali, voce e volti, 13 minuti del video di Marrazzo. Si dice che il video era appunto lungo almeno 13 minuti e i carabinieri finiti in carcere per il ricatto erano riusciti a vedere il filmato. Le circostanze emergono dagli interrogatori. Scrive Sarzanini: il video originale è molto più lungo di quello messo in vendita. A confessarlo è stato il carabiniere Nicola Testini durante la perquisizione effettuata nel suo appartamento il giorno prima di essere arrestato. Quello che ho visionato io aveva una durata di circa 13 minuti, dice Testini. Non so chi l'abbia fatto, so soltanto che era Spezzoni molto mosso. Noi l'abbiamo avuto da un confidente che poi è morto e volevamo farci almeno 60.000 euro. Il resto lo aggiunge il suo collega Carlo Tagliente, rivelando di custodirlo nel computer. D'accordo con i miei colleghi feci una copia del video attraverso il masterizzatore, che ho tuttora a casa mia e vi consegnerò spontaneamente. Le altre due copie sono state invece distrutte da me e Testini. Lo stesso Tagliente avrebbe confidato al fotografo Max Scarfone che nel filmato ci sono voci e volti che non possono essere visti, facendo presagire in qualche modo un'estensione di questo scandalo. Da segnalare che oggi ci sono parecchie firme importanti sui quotidiani che si occupano della vicenda del video della quale vi abbiamo parlato appunto anche nel nostro giornale radio di un omicidio da parte di un sicario di Camorra, e sono per essere precisi Claudio Magris sul Corriere della Sera, Roberto Saviano, come c'era da attendersi forse, sulla Repubblica, e Massimo Gramellini sulla Stampa. Ebbene, visto che siamo sul Corriere della Sera, andiamo avanti col Corriere della Sera e occupiamoci appunto di quel che scrive Magris. Dice: quel video è un reportage di guerra e ciò che esso mostra bisognerebbe rispondere come ad un atto di guerra. Il sangue sparso da Camorra, mafia, 'ndrangheta, appunto è una guerra, non meno dell'11 settembre a New York, dell'Afghanistan o dell'Iraq. E questo è quello che scrive Magris, denunciando poi una sorta di indifferenza nella cronaca quotidiana su questi temi. Vi segnaliamo sempre da Corriere della Sera un'inchiesta da un CERT, un centro di tossicodipendenze in centro a Milano, insomma, su storie anche di professionisti di alto livello che devono recarsi là per il metadone, un'inchiesta comunque piuttosto interessante. Andiamo alla Repubblica, visto che si parlava appunto di Roberto Saviano, che così parte con il suo pezzo, con il suo commento, dice: tutto normale. E questo che sembra essere il tempo e il modo di questa esecuzione di Camorra. Normalità. Tutto normale scavalcare un morto per terra, tutto normale vedere un uomo che viene sparato alla testa e non far nulla, nemmeno gridare o chiamare qualcuno. È tutto normale, non si corre, nessuno sente di dover far niente. La città è in guerra e si agisce come agiscono gli uomini in guerra, ossia strisciare, allontanarsi, non dare nell'occhio. Porta a casa la pelle, il resto vale zero, scrive Saviano. L'inferno c'è ed esiste, sono quei 5 minuti ripresi da una telecamera installata a Napoli in via Vergini nel quartiere Sanità. Scienza non insolita a Napoli negli ultimi 30 anni, non insolita per le persone che vivono come un'eventualità, che la vivono come un'eventualità, come assistere ad un litigio o a un tamponamento. L'esecuzione è un gesto immediato, semplice, poco interessante, persino stupido, ma è la banalità della scena, quell'assurda serenità che la circonda e che sembra ovattarla e relegarla al piano dell'irrealtà, che mette in dubbio l'umanità dei presenti, scrive Saviano, che conclude, naturalmente il pezzo è molto più lungo, qualcosa abbiamo saltato, tirate le somme. Questa vicenda è una triste morale, di fronte a queste immagini ti poni sempre la stessa domanda: quanto vale la vita di un uomo nella mia terra? E la risposta, tragicamente, la trovi in quelle persone che si allontanano dal cadavere con gesti quotidiani. La vita di un uomo nella mia terra non vale niente. La denuncia del killer potrebbe essere l'unico modo di riscattare un'umanità ormai sempre più a suo agio nella disumanità a cui è costretta e in cui sembra comodamente vivere. Abbiamo parlato di politica con il Corriere della Sera e sul tema la questione Tremonti, IRAP e contrasti all'interno del Popolo della Libertà. Segnaliamo anche un retroscena di Francesco Bei, sempre sulla Repubblica, che scrive che la tregua armata nel governo tra il rigorista, non nel senso naturalmente di tiratore di rigori, ma attento al rigore nei conti pubblici, Giulio Tremonti e il partito degli sviluppisti, per quanto precaria, sembra reggere, anche se l'insistenza dei senatori del PDL e Lega sul taglio dell'IRAP ha fatto di nuovo salire la tensione. Sembra in qualche modo confermarsi che quel che scriveva anche Verderami sul Corriere della Sera, ossia che insomma fino alle regionali più o meno resterà un pochino tutto fermo. Dicevamo che Repubblica apre con il virus dell'influenza A, vi segnaliamo a pagina 2 un pezzo che parla di caos vaccini, poche dosi arrivate dai medici, una raffica di rifiuti, si parla di proteste, lamentele, i vaccini per ora, sottolineano, dal Piemonte alla Puglia, dalla Campania al Lazio, vengono consegnati a rilento. Così a Napoli parlano di 130.000 arrivati sugli 800.000 previsti, a Bari 30.000 sulle 700.000 vaccinazioni necessarie sino a gennaio. Genova racconta di 12.000 consegne a settimana su una richiesta totale di 230.000 e il Lazio di 125.000 sugli 800.000 assegnati. Vedremo poi nel corso della giornata se tutto questo naturalmente avrà un seguito. Lasciamo la Repubblica e passiamo alla Stampa, dove notiamo due cose interessanti. Innanzitutto che l'apertura è su Berlusconi, ma c'è un titolo forte in alto sulla ricerca americana: non più necessari uomo e donna per fare i bambini, scrive la Stampa. Sperma e ovuli da cellule staminali, vi ricordo che di questo parleremo in bianco o nero a partire dalle 8:30. Vi segnaliamo sempre dalla Stampa, a firma Francesco Lalicata, un pezzo che parla di mafia e politica. Ciancimino è era di Gladio, il figlio dell'ex sindaco consegna altri appunti e nuove rivelazioni nelle quali che si sostiene che il padre di Massimo Ciancimino, Vito, l'ex sindaco DC, apparteneva a Gladio, almeno così ha scritto lo stesso Vito Ciancimino. La rete di controspionaggio del Patto Atlantico che operò in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'inizio degli anni 90, quando Giulio Andreotti ne rivelò l'esistenza in Parlamento. Su questo segnaliamo anche qualche dubbio da parte di uno che insomma queste cose le conosce, Francesco Cossiga, intervistato sempre dalla Stampa. Da segnalare anche il commento dell'economista Mario De Aglio, che parla di appunto di IRAP e non solo. Dice: il prodotto interno lordo italiano è caduto al livello di 10 anni fa, la produzione industriale con il suo balzo all'indietro è precipitata al livello di 20 anni fa. Queste le osservazioni del governatore della Banca d'Italia, e qua si sofferma De Aglio sul tema dell'IRAP, perché dice l'Italia ci metterà molto di più a recuperare i livelli pre-crisi rispetto agli altri paesi europei, e dice deleterio che si limiti a parlare dell'IRAP in termini di riduzione di quantità e non invece di aumento di qualità, di modificazione profonda. Occorrerebbe partire dalla constatazione che, quale che sia il giudizio storico che se ne vuol dare, l'IRAP è oggi un'imposta inadatta alle condizioni congiunturali e strutturali in cui si trova l'economia italiana, con forti effetti collaterali negativi sulle imprese. Questo è il giudizio di Mario De Aglio. Parleremo poi ancora di economia tra un attimo con Il Sole 24 Ore, prima la viabilità. In primo piano. Ancora qualche minuto insieme. Si diceva del Sole 24 Ore, prima di passare alla questione della pace bancaria di Tremonti, vi segnaliamo una notizia interessante e anche divertente. È un racconto di Lino Terlizia, pagina 8 del Sole 24 Ore, che parla di quel che sta succedendo a Chiasso. A quanto pare l'Italia ha sguinzagliato degli ispettori fiscali che vanno in giro insomma appena oltre confine, quindi in luoghi come per esempio Chiasso, e a quanto pare il comune di Chiasso, il comune svizzero di Chiasso, ha mobilitato i suoi cittadini contro il fisco italiano. In sostanza gli dice: segnalate se vedete delle persone sospette, insomma, che possano essere degli ispettori fiscali. Una bella storia. Tremonti vara la pace bancaria, dicevamo, il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Vi segnaliamo anche una questione che riguarda la Roma Calcio. A quanto pare in atto uno scontro tra Rosella Sensi e Unicredit, scontro che a quanto pare prenderà corpo oggi nell'assemblea della Roma. E vi segnaliamo anche la nascita dell'agenzia per aiutare le reti d'impresa e le aggregazioni da parte di Confindustria. A ciascuno il suo mestiere, il suo dovere, il titolo del commento a firma di Orazio Carabini, che punta sulla questione della concordia ritrovata appunto tra Tremonti e le banche. Dice: meglio dirlo a bassa voce perché le sorprese non finiscono mai, eppure sembra che alla buon'ora i protagonisti della politica e dell'economia abbiano imboccato la strada giusta, quella di collaborare su un progetto che in questo momento ha un solo fondamentale obiettivo: uscire dalla crisi il più rapidamente possibile senza senza danneggiare il tessuto sociale e quello produttivo e senza compromettere in modo irrimediabile l'equilibrio della finanza pubblica. Compito difficile, ma che si può fare, insomma, solamente in concordia e solamente insieme. Sono bastati giorni, pochi giorni per ricondurre tutti a una dimensione cooperativa che noi del Sole 24 Ore, scrive Carabini, abbiamo sempre auspicato, a lungo da soli e qualche volta irrisi perché sembrava impossibile da recuperare. Il ministro dell'economia Tremonti, messi da parte i toni polemici nei confronti dei banchieri, si è rivolto loro con fare bonario. I banchieri in fondo non aspettavano altro, stremati dalle accuse di egoismo e di incapacità che il ministro non ha lesinato. Ieri, intuendo che il vento stava per cambiare, gli hanno rivolto un timido applauso già prima che prendesse la parola. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere qualche altro giornale che si occupa anche di cose diverse da queste, come per esempio si diceva Avvenire, dove l'apertura è l'America, il PIL che sale del 3,5%, ma c'è un titolo forte con tanto di foto sulla cosiddetta nave dei veleni. La nave dei veleni non c'è mai stata, ma ha affondato i pescherecci di Cetraro. E perché? Perché l'economia locale di Cetraro, da quando si sono diffuse le voci su questa nave dei veleni, è andata sempre peggiorando. L'invenduto è arrivato circa ad un 80%, insomma, rispetto al pescato. Si chiede Antonio Maria Mira su Avvenire. Ora chi pagherà? Chi pagherà i pescatori che hanno invano scaricato nei porti dell'ottimo e pulitissimo pesce? Chi pagherà gli operatori del turismo? E chi ripagherà questa Calabria, già così martoriata da mali concretissimi, che si chiamano 'ndrangheta, cattiva amministrazione e mala politica? C'è ben altro da scrivere e da denunciare in questa terra splendida e tragica. La vera faccia sporca e avvelenata, quella dei rifiuti tossici certissimamente interrati a Crotone sotto piazze, scuole e commissariati, quella dei depuratori perennemente mal funzionanti, e questo sì che fa male al mare, quella dei bidoni che ogni alluvione, che in Calabria abbondano e questa è un'altra storia, emergono dalle fiumare. Questo Antonio Maria Mira su Avvenire. Qualche altra segnalazione, siamo quasi in chiusura e poi daremo la linea al giornale radio. Possiamo andare al Riformista, dove oggi troviamo un paio di cose interessanti. Innanzitutto un pezzo di Fabrizio D'Esposito che parla di buchi neri dell'affair Marrazzo e sul ruolo di Silvio Berlusconi, del Presidente del Consiglio. Una bellissima intervista di Luigi Spinola ad un caidista, un uomo che fondò insieme a Bin Laden, fu uno dei primi adepti di Al-Qaeda e tentò di uccidere l'ex re Zahir Shah. Questo ex caidista, che è un cattolico, un ex cattolico naturalmente portoghese, che si trova in questi giorni a Roma. C'è il giornale, apre in merito al capogruppo del PDL Maurizio Gasparri, il cui nome è circolato in queste ore in merito all'inchiesta sui trans, e il titolo principale è Politici e trans, Gasparri spiega, il capogruppo PDL non ci sta a entrare nel tritacarne del gossip, un vociare vergognoso, e racconta che si trovava su una strada, non riusciva a trovare l'indirizzo per un circolo sportivo, fece due o tre inversioni a U e a quel punto fu fermato dalla paletta dei carabinieri in una zona appunto dove ci sono parecchi transessuali, insomma. Poi l'apertura di Libero, e qua siamo in chiusura, Santoro smutanda il PD, Anno Zero simula il video a luci rosse dell'ex presidente del Lazio con un biado, la Serracchiani balbetta, poi va in onda il solito copione, è tutta colpa di Silvio, un commento di Filippo Facci, si intitola Luci rosse, toghe pure, di taglio basso. Le 7:52 minuti, 57 secondi. Adesso la linea al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo con Soldi e dintorni e poi con Bianco e Nero. Vi ricordo che si parlerà della questione del ovociti e spermaciti dalle staminali. A più tardi. 24 mattino. Le 8:18 minuti, 29 secondi, bentornati a 24 mattino, è il momento dell'economia. X-Match, gli ETF di Credit Suisse, vi presenta Soldi e dintorni. E oggi cambio completo della guardia, c'è Valeria De Rosa e non Deborah Rosciani. Valeria. Buongiorno, buongiorno Simone a te e a tutti i nostri ascoltatori. E sì, questa mattina un piccolo colpo di stato abbiamo fatto a Radio 24, via Milan e Rosciani, in onda Spezia e De Rosa. Di cosa? Di cosa oggi parliamo? Parliamo del conto corrente semplice, un accordo firmato il 28 ottobre, quindi l'altro ieri, tra ABI e associazioni dei consumatori. Ne parliamo con il dottor Stefano Conti, che è il vicepresidente di Federconsumatori della Regione Lazio, che saluto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, dottor Conti, entriamo subito nel vivo e cerchiamo di capire che cos'è questo conto corrente semplice. Ma diciamo che è una nuova previsione di conto corrente, che dice la parola stessa, semplice, perché è stato ipotizzato dalle nuove istruzioni sulla trasparenza della Banca d'Italia per favorire l'inclusione di circa 6-7 milioni di cittadini che non godono ancora di un conto corrente e che ha delle caratteristiche molto semplici, e che prevede questo conto corrente alcune tipologie di operazioni rivolte alla maggior parte dei correntisti, e che alcune operazioni sono in numero illimitate, altre operazioni invece hanno un numero limitato. E a fronte di questi servizi previsti al conto corrente semplice c'è un unico canone annuo, quindi nessun tipo di costo aggiuntivo o nascosto, che garantisce tutti questi servizi. Allora, tanto per cominciare, dobbiamo dire, almeno per quanto mi riguarda, quando ho letto quante persone in Italia non hanno, diciamo, a che fare con il conto corrente bancario, che forse per molti di noi è una cosa totalmente scontata, e si aggira il numero tra i 7 e gli 8 milioni, è veramente tanto, è una cifra veramente impressionante. Sì, questo è vero. Di solito queste persone sono, diciamo, la categoria più debole della popolazione, sono alcuni pensionati, diverse centinaia di migliaia, che per la loro età, per la loro storia, non hanno mai aperto un conto corrente. Immaginate tutti i pensionati che, nonostante ci siano tutte queste possibilità nuove, continuano ancora ad andare a prendere ogni mese la pensione in contanti agli uffici postali, sottoponendosi anche ai rischi di furto e cose di questo. Certo. E poi ci sono altre fasce, tipo gli immigrati e quelli che non hanno, gli è stato negato un conto corrente, insomma, la categoria dei protestati, per esempio. Allora, dottor Conti, lei diceva il canone annuo, una somma unica, sì, molto chiara, trasparente. Da chi viene stabilita? Ma diciamo che viene stabilito dal mercato, quindi dalle banche, che accetteranno questo suggerimento di lanciare sul mercato questo conto corrente semplice. Quindi il prodotto è uguale per tutte le banche. Il costo sarà poi il mercato a stabilirlo, quindi la concorrenza tra le varie banche. Ecco, speriamo, ci auguriamo che in questo caso la concorrenza ci sia e sia anche più forte che in altri casi. Dottor Conti, questo prodotto sarà disponibile prima di tutto quando e se presso tutte le banche? Ma diciamo che l'accordo è stato appena firmato, è stato firmato tra noi, Associazione dei Consumatori, e l'ABI, e quindi verrà diffuso a tutte le banche. Poi naturalmente, siccome non è obbligatorio per nessuna banca, ma insomma si ipotizza che tutte le banche aderiranno a questo invito della loro associazione di categoria, che è l'ABI, noi riteniamo, non so, nei prossimi giorni, in qualche settimana, verrà poi diffuso. Possiamo augurarci che, insomma, entro la fine dell'anno questo prodotto sia disponibile. Perché il prodotto è molto semplice, molto semplice. Ecco, rispetto al conto corrente attuale, quindi voglio dire anche l'interesse della banca nel proporre questo tipo di soluzione, che potrebbe andar bene non solo per quelle categorie che lei ricordava, più deboli o che comunque hanno bisogno di meno complicazioni, ma potrebbe magari adattarsi anche a un pubblico più ampio. Beh sì, in teoria questo è possibile, però la tipologia delle operazioni previste da questo conto corrente semplice è abbastanza limitata, anche se poi copre tutte le maggiori esigenze di un correntista, quindi ci sono il discorso del prelievo con gli ATM, le domiciliazioni, gli addebiti RID, i bonifici, versamenti in contanti, però il semplice fatto che per esempio uno abbia l'esigenza di di avere un deposito titoli, quindi comprare e vendere titoli, questa per esempio è una condizione che non rientra nel conto corrente semplice, per cui tutti i correntisti che avessero anche solo questa ulteriore semplice necessità non potranno utilizzare il conto corrente semplice. Mentre per esempio invece è possibile utilizzare via web il conto corrente? Sì, perché c'è una previsione che il conto corrente semplice potrà essere diffuso sempre a scelta delle banche o online, quindi via web, oppure con un utilizzo normale tramite la sottoscrizione di un contratto allo sportello. Naturalmente le due possibilità probabilmente prevederanno dei costi, quindi dei canoni diversificati, perché se è semplicemente online è chiaro che l'accesso e quindi il disturbo che si potrebbe dare alle banche sarebbe molto molto limitato e quindi evidentemente il costo sicuramente sarà più basso. Senta, dottor Conti, per quanto riguarda l'apertura, ci sono problematiche particolari o è no, anche in questo caso più semplice rispetto a un conto corrente normale, diciamo così? Ma diciamo che nel caso in cui uno lo apra andando presso una qualsiasi banca, sarà invitato a sottoscrivere un contratto con poche semplici e chiare forme, aspetti contrattuali, e nel testo iniziale del contratto sarà chiaramente indicato che si tratta di un conto corrente semplice, al limite sarà soltanto seguito dal nome della banca che le propone, appunto per caratterizzare questo prodotto molto molto semplice, ripeto. Parlavamo poco fa del canone e io le volevo fare una domanda a proposito dell'imposta di bollo, perché se ho capito bene ci sarebbe anche l'ipotesi allo studio di abolire questa imposta, che per chi di noi è piuttosto avvezzo agli estratti conto se la ritrova ogni tanto anche con un certo disappunto. E infatti c'è una proposta, diciamo, avanzata dall'ABI, da noi, al Ministero competente, di abolire questa imposta di bollo annuo per questa caratteristica di conto corrente. Di conto corrente, certo. Sì. Naturalmente dovrà essere eventualmente accolta o rigettata dai competenti organi. L'ultima domanda che le volevo fare è la seguente: volevo capire se le trattative in questo caso, questa volta, erano state più facili, più agili con l'ABI, visto che più di una volta ci sono state delle frizioni tra le associazioni dei consumatori e l'associazione bancaria. Diciamo che i rapporti tra l'associazione dei consumatori e l'ABI sono sempre più migliorati negli ultimi tempi. Questa volta sono stati sufficienti un paio di incontri per raggiungere un obiettivo condiviso. Quindi abbastanza semplice questa volta. Beh, meno male. Meglio che le altre volte. Ci auguriamo che sia così anche in futuro. Ce lo auguriamo anche noi. Dottor Conti, io la ringrazio. Prego. Magari torneremo a disturbarla per capire se poi effettivamente questo strumento sarà entrato in vigore, con quali modalità e nei tempi giusti. Per il momento a lei buon lavoro e buona giornata. Grazie anche a voi. Buon lavoro e buona giornata. Grazie. Io per il momento mi fermo qui. Simone, ricordo che oggi a Salvadanaio ci occupiamo anche noi della giornata del risparmio, la giornata mondiale del risparmio che si è svolta ieri, quindi appuntamento dopo il GR di mezzogiorno. Beh, insomma, quale tema più adatto per Salvadanaio? Sono le 8:27 minuti, 20 secondi. Grazie naturalmente a Valeria De Rosa. Ci ritroviamo tra un attimo dopo una breve pausa pubblicitaria. Il meteo, parleremo di cellule staminali e questo è il tema del nostro sondaggio di oggi, ossia la notizia che avete visto e che avete anche sentito nei nostri giornali radio, della quale abbiamo parlato in rassegna stampa, insomma, ovuli e sperma dalle staminali, si dice presto bimbi senza uomo e donna. Vedremo se è vero e che cosa vuol dire. Tra poco. 24 mattino. E bentornati a 24 mattino, le principali notizie di questa giornata. C'è ancora l'economia in primo piano, come sapete ieri sono arrivati dati positivi per il prodotto interno lordo americano, un più 3,5%, ma per quanto riguarda l'Italia, Berlusconi parla di un ritorno alla crescita, di una ripresa. E intanto all'interno del Parlamento c'è ancora tensione sul tema dell'IRAP tra il governo e la maggioranza. Poi c'è la vicenda della nave dei veleni. Ieri è stato confermato dal ministro Prestigiacomo e dal capo della Direzione Nazionale Antimafia, Piero Grasso, che non c'è nessuna nave dei veleni. In realtà il relitto al largo di Cetraro in Calabria è un piroscafo passeggeri affondato nel 1917. In primo piano c'è anche l'influenza A, arriva a 11 il numero delle vittime, e nel frattempo il vice ministro Fazio parla dell'Italia come il paese più colpito d'Europa. Adesso passiamo all'argomento di oggi del nostro sondaggio. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. E oggi ci occupiamo di un argomento che va tra scienza ed etica. La notizia è sui quotidiani di oggi, ve ne abbiamo parlato anche nei nostri giornali radio, insomma l'avete sentita un pochino dappertutto. Ovuli e spermatozoi dalle staminali. C'è chi ha scritto: presto bambini senza uomo e donna. È una ricerca della Stanford University che viene definita una svolta nella lotta all'infertilità, ma c'è già chi parla di fabbrica dell'uomo. E c'è già l'Osservatore Romano che si scaglia tramite i vescovi americani, in realtà riportando delle dichiarazioni dei vescovi americani contro questo tipo di ricerca. La nostra domanda di oggi, appunto, generati ovuli e spermatozoi dalle staminali, stiamo osando troppo? Potete votare su www.radio24.it e su www.ilsole24ore.com. Potete anche telefonarci in questi minuti nei quali parleremo di questa vicenda all'800 24 00 24. Saluto i nostri ospiti, iniziando da un collega, Armando Massarenti, giornalista, responsabile di scienza e filosofia del Domenicale del Sole 24 Ore, soprattutto autore del libro Staminalia, le cellule etiche e i nemici della ricerca. Buongiorno Armando. Buongiorno. Buongiorno anche a Francesco D'Agostino, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Roma Tor Vergata, presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno a lei. E buongiorno a Maurizio Mori, presidente della Consulta di Bioetica, un'associazione culturale Onlus che riunisce alcuni studiosi di bioetica italiani, docente di bioetica all'Università di Torino. Buongiorno Mori. Buongiorno. Allora, io partirei col nostro Armando Massarenti chiedendogli di spiegarci innanzitutto un pochino come funziona questa cosa, perché come al solito noi giornalisti abbiamo la passione per il titolo forte, e questo è normale perché poi i giornali sono anche un prodotto che va venduto. In questa ricerca, diciamo, rispetto al titolo forte che generalizza molto, c'è qualcosina di diverso. Che cosa hanno fatto questi ricercatori, Armando? Ma io direi che la rilevanza di questa notizia non è solo il fatto che, ed è questo è molto molto importante, siano stati realizzati a partire dalla pelle, cioè quindi da cellule adulte, degli spermatozoi e degli ovociti, ma anche dal metodo che è stato usato e dal particolare cocktail che ha permesso la reazione che ha portato a questa realizzazione, cioè un cocktail che sono fatto di reagenti. Prima venivano usati dei reagenti che provenivano dai topolini, e adesso invece è tutto umano, diciamo, cioè non ci sono materiali estranei, e quindi questo è molto molto rilevante, cioè fa vedere come ci sia un progresso costante in questo tipo di ricerca, che io nel mio libro cerco comunque di sottolineare è una ricerca molto agli inizi. Non dobbiamo esagerare, portarci avanti con delle proiezioni eccessive, su addirittura appunto titolando, poi per carità è un gioco un po' perverso questo dei titoli ad effetto, no? Figli a partire dalla pelle, oppure non ci saranno genitori. Ecco, questa cosa qui secondo me genera un dibattito che poi può creare degli eccessi di cautela e anche poi danneggiare la ricerca, non tanto negli Stati Uniti dove la ricerca è piuttosto libera, ma in paesi come l'Italia dove già in passato abbiamo visto che impostare il dibattito bioetico in questi termini porta a delle restrizioni che sono eccessive, a delle cautele che sono eccessive, che poi portano di fatto alla una sorta di turismo procreativo, no? Allora, la rilevanza della ricerca di questo risultato riguarda appunto le questioni dell'infertilità ed è un chiaro passo avanti. Ecco, stiamo attenti a non bloccare la ricerca in queste cose. Naturalmente gli scienziati su Nature sottolineano che, come in moltissimi casi di questo genere, sono necessarie delle linee guida. Ma delle linee guida sono quelle anche che ha evocato Obama, peraltro, quando ha tolto le restrizioni sui finanziamenti alla ricerca delle cellule staminali embrionali che aveva imposto invece il presidente Bush in precedenza. Ecco, queste linee guida non sono delle leggi, cioè non sono delle leggi sono delle sorte di regolamenti che testimoniano peraltro qualcosa che in genere è contrario a ciò che si dice con i titoli ad effetto, cioè che la ricerca scientifica, la comunità scientifica è particolarmente attenta alle questioni etiche e le sa risolvere in maniera molto interessante e molto efficace al suo interno. Armando, su questo siamo d'accordo, però questa è senza dubbio la questione teorica. Insomma, si parlava di eccessi nei titoli, eccessi nel dibattito. È vero che poi c'è anche il rischio di eccessi magari da parte di singoli paesi, perché poi queste linee guida da chi vanno tracciate alla fin fine? Vanno tracciate, le tracciano non gli scienziati ma i governi. E su questo punto io vorrei coinvolgere il professor Francesco D'Agostino, che secondo me su questo ha qualcosina da dire. D'Agostino. In modo molto sintetico, il progresso della scienza è un bene e nessuno lo può mettere in dubbio. Oggi però la scienza progredisce attraverso i soldi, cioè bisogno di immensi quantità di denaro per poter far progredire la scienza. Di conseguenza, orientare la ricerca in un senso o in un altro senso è estremamente importante, perché da qui possono derivare, come capiamo tutti, conseguenze di grande rilievo. Allora, quando gli scienziati chiedono ad alta voce che la loro ricerca sia rispettata, dicono qualche cosa di sacrosanto, ma molto spesso non ci dicono che dietro questa richiesta c'è l'esigenza di avere grandi quantità di denaro. Ecco, vogliamo venire, D'Agostino, però alla questione di oggi proprio. La questione è questa, che sono state citate le linee guida. Le linee guida molto spesso divengono autorizzazioni consolatorie per gli scienziati, fate tutto quello che ritenete opportuno fare. Invece io penso che un sistema sociale moderno debba orientare la ricerca scientifica nelle direzioni più importanti per il bene salute, che è un bene globale, e soprattutto eliminando tutti i rischi di enormi speculazioni economiche a carico delle persone, che molto spesso queste ricerche portano con sé. Le procedure di fecondazione artificiale, soprattutto le più estreme, non saranno mai procedure che vanno a vantaggio della generalità degli esseri umani, saranno procedure di nicchia che verranno utilizzate in casi molto particolari e trascurando esigenze di lotta contro l'infertilità, che invece potrebbero essere affrontate in maniera molto più semplice dal punto di vista tecnologico e soprattutto a beneficio anche dei paesi più poveri. Quello che mi insospettisce dietro queste notizie è la creazione di tecnologie sempre più raffinate e destinate sempre di più ad essere utilizzate da pochi. Ma lei teme la fabbrica dell'uomo, D'Agostino? Guardi, da quello che si può capire, queste tecnologie dilatano l'artificializzazione della nascita. E la dilatano al punto tale che in alcune vignette che abbiamo visto sui giornali il neonato si rivolge alla provetta per chiamarla papà o mamma. Questo è fuori di ogni dubbio. Quindi che ci sia un grande problema etico nell'ordine dei rapporti generazionali, genitori-figli, è al di là di ogni dubbio. Quindi prima di esaltarci perché ci si sta muovendo nella direzione di un'ulteriore artificializzazione della nascita, dovremmo fare riflessioni di carattere bioetico profonde e soprattutto ampiamente condivise. Su questo tema qua, però io non riesco ad avere, vorrei avere da lei una, come dire, una posizione più netta. La sua impressione è che, per venire alla domanda del nostro sondaggio di oggi, ci stiamo spingendo troppo oltre oppure no? Poi vorrò sentire Mori, ma insomma lo facciamo dopo la viabilità. Intanto D'Agostino mi dica, ci stiamo spingendo troppo oltre? La scienza si sta spingendo troppo oltre secondo lei oppure no? La mia opinione è che già in passato ci siamo spinti troppo oltre, nel momento in cui abbiamo programmato la possibilità di nascite in provetta utilizzando gameti abbandonati, anonimi, ovociti di cui non si sa la provenienza, spermatozoi di cui non si sa la provenienza, per finalità riproduttive. Questo, seppure con tecnologie di più basso rango, già avviene che donne sole si facciano fecondare con il seme anonimo di un donatore. Quindi questa frattura dell'ordine generazionale già è in atto da anni, soltanto noi cerchiamo di rimuoverne le grandi problematiche etiche e psicologiche, perché nonostante tutto, come dicevo prima, restano fenomeni statisticamente limitati. Ma dobbiamo assumere questa consapevolezza. L'umanità vive dell'ordine delle generazioni. L'ordine delle generazioni esige rapporti genitori e figli che siano diretti ed immediati e non gestiti dai laboratori e soprattutto da laboratori di altissima tecnologia. Questo crea inevitabilmente un problema antropologico rilevantissimo. La notizia di oggi è un ulteriore passo avanti nella direzione che già conosciamo da tempo. In questa direzione. Ora la viabilità e poi sentiamo Mori. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Sondaggio di oggi, dunque: generati ovuli e spermatozoi dalle staminali, stiamo osando troppo? Maurizio Mori, presidente della Consulta di Bioetica, abbiamo sentito ampiamente Francesco D'Agostino esprimersi su questo. Insomma, l'impressione è che non è che stiamo osando troppo oggi, è che stiamo osando troppo da un po' troppo tempo. Lei come la vede? Ma io invece sono ben contento, ecco, io credo che non stiamo osando troppo, che la scienza sta ampliando l'umano e questa è una cosa positiva. Abbiamo possibilità di nuove terapie contro l'infertilità, contro la sterilità, abbiamo nuovi strumenti di ricerca e quindi riusciremo a garantire un futuro migliore dal punto di vista genetico per i nostri figli. Credo che però dopo la sua pressing al professor D'Agostino abbia detto con grande chiarezza il problema, cioè se il problema è quello di rispettare quello che è stato chiamato come ordine generazionale, ovviamente siamo già fuori binario dal tempo in cui ammettiamo la contraccezione, perché quello è il primo passo, la prima tecnica che in modo abbastanza rudimentale ha distrutto l'ordine della generazione. Questa è una posizione che io credo sia retrograda, ormai pericolosa, e che mostra come certe idee impediscano all'uomo di partire e di librarsi in un futuro che speriamo migliore. Ecco Mori, però a leggere le notizie di oggi, diciamo questo che abbiamo chiamato con le parole suggestive che abbiamo trovato nell'intervista a Remo Bodei fatta sulla Stampa di oggi, La fabbrica dell'uomo, fa una certa impressione, pone dei dubbi culturali, etici, insomma l'idea che per esemplificarla molto brutalmente, no? Che da un mio pezzo di pelle io possa avere possa generare un figlio e lascia sconcertati, insomma. Allora, ci sono varie questioni. Intanto questo dovrebbe semplicemente fare riflettere coloro come il professor D'Agostino che un paio d'anni fa applaudivano al metodo Yamanaka dicendo che era quello che stava risolvendo tutti i problemi etici della ricerca sull'embrione. Ci spiega cos'è? Beh, è il problema di inserire alcuni geni in una cellula della pelle e farla ritornare alla fase di pluripotenza e quindi senza, da questo punto di vista, dover passare da cellule staminali embrionali. Allora i cattolici hanno applaudito dicendo questo è il metodo pulito, è il metodo etico per avere staminali derivate appunto da cellule adulte. Allora, sì, perché su questo mi pare che le notizie siano diverse. Alcuni dicono che a Stanford hanno ottenuto questi gameti da cellule staminali embrionali. Altri invece dicono che l'hanno ottenuto con il metodo della riprogrammazione. Al di là di questo fatto, se è in questo secondo caso, noi vediamo come anche un metodo che prima sembrava essere perfettamente pulito dal punto di vista etico, adesso sembrerebbe anche questo violare così le frontiere dell'umano. Io credo dovremmo abituarci al fatto che nel momento in cui abbiamo la capacità di controllare la vita, dobbiamo assumercene la responsabilità. C'è chi, come il professor D'Agostino e in generale i cattolici, dicono che questo è una sorta di vilipendio alla natura, no? E questo credo che sia stata la posizione tradizionale, è capitato quando si è scoperta l'automobile e tante altre cose, a dire il cielo, i primi che volavano dicevano ah, questi stanno violando l'ordine naturale e tutte queste altre questioni. I conservatori e i retrogradi li abbiamo sempre avuti, io invece ho una visione progressiva, ci sono alcuni problemi da risolvere come quelli giustamente di un controllo del consenso informato, di evitare ulteriori sfruttamenti economici e tante altre questioni, però non insisterei che quelli sono i problemi principali, quei problemi ce li abbiamo anche con la televisione, ce li abbiamo con le automobili, li abbiamo con tante altre questioni. Professor D'Agostino, le devo una risposta e le chiedo di essere abbastanza breve perché vorrei lasciare la conclusione ad Armando Massarenti, su quello che le dice Mori da una parte e dall'altro sul tema che ha posto Mori, insomma l'ordine generazionale in realtà si interrompe già, cioè già la contraccezione è un'interruzione dell'ordine generazionale, quindi tutto sommato alla fine una cosa di questo genere non è così grave, insomma. D'Agostino, brevemente. A parte il fatto che io non ho mai parlato di vilipendio alla natura, Mori è sempre abituato, come quelli che la pensano come lui, ad attribuire all'interlocutore cose che non ha mai detto. Io ho semplicemente sostenuto che il progresso scientifico, da quando almeno è scoppiata la prima bomba atomica, è sempre ambiguo e non possiamo, come dice Mori, invocare l'invenzione dell'automobile per dire va tutto bene, dobbiamo stare di buon umore. Non è così. Ci vuole un controllo sociale ed etico sugli sviluppi della scienza per orientare la scienza verso l'uomo e non contro l'uomo. Se queste scoperte possono portare avanti a modelli sociali come quelli del famoso romanzo di Aldous Huxley, per cui la riproduzione è tutta gestita dallo Stato ed è sottratta all'autodeterminazione dei singoli, credo che siamo tutti d'accordo nel dire che è un progresso aberrante. Allora il nostro problema è riflettere su queste cose e non, come fa Mori, assumere atteggiamenti illuministici di spensieratezza e convincere l'opinione pubblica che va tutto bene, perché purtroppo non è così. Perché le cose vadano bene ci vuole un serio impegno di riflessione sociale ed etica su queste dinamiche scientifiche. Chiarissimo. Questa era la mia unica istanza. Chiarissimo D'Agostino, chiarissimo D'Agostino. Armando Massarenti, 30 secondi per la conclusione. Ma io direi questo, che quando ci sono problemi di questo genere, si danno notizie, non bisogna esagerare nell'inventarsi dei problemi che non sono strettamente collegati a questo. Ora, è vero che la società deve avere consapevolezza di che cosa fanno gli scienziati, però bisogna anche sottolineare che gli scienziati non sono dei pazzi, non sono dei Frankenstein, anzi hanno un rigore etico che spesso è molto molto più alto della normale, dei cittadini normali e di altre categorie, tra cui per esempio i politici, e per cui si vede anche da come si scoprono in fretta le frodi. Pochi giorni fa c'era una notizia, quella di Wang, che è stato condannato. Quando è scoppiato il caso di quella frode sulle cellule staminali, nel giro di 2 settimane l'intera comunità scientifica aveva denunciato il fatto. Ora io sfido chiunque a trovare un altro settore che riesca a smascherare in maniera così veloce le frodi. E questo vale anche per i finanziamenti, insomma. Armando, cerchiamola un po' di demonizzare la scienza. Okay, adesso ci sono i problemi, ma non estendiamoli in maniera eccessiva e creando poi un allarmismo che è eccessivo. Così come non va bene il miracolismo, non va bene neanche l'allarmismo eccessivo. Grazie, grazie anche ad Armando Massarenti del Sole 24 Ore. Ripeto il sondaggio di oggi: generati ovuli e spermatozoidi alle staminali, stiamo osando troppo. Potete votare www.radio24.it e www.ilsole24ore.com. Grazie per oggi a Peter Bescapè in regia, Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione. L'appuntamento con 24 Mattino naturalmente è per lunedì. Linea al GR.